cosa c'è di grande in questo amore che tocca il cuore, che tocca il cuore. Dimmi che cosa provi quando sei accanto a me, insieme a me, fiorando me. Quando ti bacio, quando ti stringo, quando ti do tutto il mio amore, se non ci fossi ti venderei, se non ci fossi io morirei. Cosa vuoi ancora, ancora tu, sempre di più, per sempre tu. Dimmi cosa vuoi di ancora, ancora più forte, ancora più grande per questo amore. Quando ti bacio, quando ti stringo, quando ti do tutto il mio amore, se non ci fossi ti venderei, se non ci fossi io morirei. Allora vieni da me, prendi questa mia vita, colore, quello che è in me, prendi questa mia vita, e allora vieni da me, prendi questo mio mondo, insieme a me, insieme a me.